Cari amici, sono sempre Gerlando Gatto, vi presento il nostro podcast numero 14, e protagonista un grandissimo pianista che purtroppo ha abbandonato l'Italia oramai da tanti anni per trasferirsi in quel di Francia. Ciao a tutti, sono Nico Morelli, pianista, l'ha già detto Gerlando. Cos'altro posso aggiungere? Sono pugliese, vivo a Parigi da 16 anni. Sono una musica che voi conoscete, che è jazz, anche se la mischio con tante altre influenze. E niente, sono qui per questa intervista, sono a Roma, ospite di Gerlando per questa guida all'ascolto che tiene a Casa del Jazz. Ieri sera abbiamo tenuto questo concerto, 18 dicembre 2013. È stata una bellissima serata in cui abbiamo affrontato alcuni standard, mie composizioni e composizioni popolari del sud Italia, della Puglia, appunto, che io ho messo insieme al jazz, reinterpretandole in maniera personale. Ecco, partiamo allora dalla serata di ieri. Come ti sembra questa formula che abbiamo scelto per avvicinare la gente al jazz? Ma mi sembra una bellissima idea, poi vedere l'affluenza nella sala mi ha confermato questo. Sono stato contento di vedere che c'è ancora un pubblico che si interessa a vedere e ad ascoltare il jazz spiegato, il jazz parlato. Per me è stata una sorpresa vedere questo, una sorpresa positiva, voglio dire. Vuol dire che c'è ancora gente curiosa di capire i meccanismi e di conoscere anche gli artisti che si avvicinano sul palco. Passiamo adesso alla tua di vicenda professionale. C'è una data che segna uno spartiacque nella tua carriera e nella tua vita. Qual è? Tu parli della data in cui mi sono trasferito a vivere. Sì, il 10 ottobre 1998. Sì, spartiacque, ma spero ce ne sono state tante altre prima e boh, ce ne saranno ancora altre dopo. Sì, io in quella data sono andato a Parigi, inizialmente così per passare un breve periodo di vacanza che doveva durare una ventina di giorni, poi da quei 20 giorni sono partite tante attività, tanti progetti che mi hanno portato a ritornare spesso nei primi 2-3 anni e poi alla fine mi hanno portato alla decisione di prendere casa lì e quindi diciamo che il grosso della mia attività concertistica si è spostato in Francia. Come spieghi il fatto che adesso non pochi musicisti italiani decidono di trasferirsi a Parigi? Insomma, quali sono le differenze sostanziali che tu trovi tra la scena jazzistica, forse italiana e troppo vasta, diciamo, tra la scena jazzistica romana e quella parigina? Boh, questa domanda mi mette sempre un po' in crisi, perché se parlo troppo bene della scena jazzistica parigina, passo per quello che snobba gli italiani. Se parlo bene degli italiani mi si chiede: ma allora che ci stai a fare a Parigi? La differenza, non so, sono due città che si somigliano per tante cose, sono due grandi città piene di bravissimi musicisti, entrambe le due città. Adesso per sintetizzare posso dire che forse in Italia, forse a Roma, l'organizzazione che sta dietro i concerti e quindi dietro la musica è ancora fatta in maniera un po' artigianale, un po' più genuina, che non è una cosa necessariamente negativa, voglio dire, perché presuppone una passione organizzativa che a volte non vedo, ad esempio in Francia, dove invece molto è fatto in maniera molto schematica, rigida, quasi istituzionale. Però d'altro canto in Francia vedo proprio questo, vedo una capacità organizzativa più puntuale, più rigorosa, magari a discapito della passione. Quindi non lo so, poi alla fine uno sceglie quello che si sente più di vivere in maniera, dipende dal proprio carattere poi. Certo, il fatto di avere un'organizzazione puntuale e precisa dietro ad esempio un concerto è rassicurante perché sai tutto che funzionerà. Dall'altra parte, invece, vivere in un posto dove sai che incontrerai l'organizzatore appassionatissimo si farà in quattro pur di far venire fuori un bel concerto, anche se avrà pochi mezzi a disposizione, anche questo è molto bello. Poi è una questione di scelte, la vita, la musica è così. E a proposito di musica, come ti sei avvicinato alla musica e come ti sei avvicinato al jazz? Mi sono avvicinato alla musica, allora la mia storia, come quella di tutti, di molti, ci sono diverse fasi. Io da bambino, all'età di 3 anni, ho avuto in regalo una piccola fisarmonica a giocattolo. Da quel momento non smettevo più di suonarla, i miei mi hanno visto così ossessionato da questo oggetto e hanno deciso poco tempo dopo di aiutarmi comprandomi un primo strumento vero che era un organo elettronico, poi un pianoforte. Io pian piano ho seguito questa direzione e da allora che non ho smesso. Poi a 7 anni ho cominciato seriamente a studiare pianoforte, conservatorio, fra alti e bassi. Ci sono stati dei periodi in cui mollavo tutto perché non ne potevo più, poi riprendevo e insomma va avanti così da più di 40 anni, anzi, fa strano dirlo. Chi lo dice? Nella tua musica si avvertono echi provenienti da musiche altre. È una scelta consapevole o è proprio un tuo linguaggio che ti ha sorto naturalmente anche per il fatto di aver frequentato studi di musica classica? Ma io spero sempre di più che nella mia musica ci siano altre influenze perché prima di tutto io sono nato in Italia, sono nato in Puglia, non sono nato a New York, quindi voglio dire da jazzista faccio fatica a dire di essere un jazzista puro che ha suonato solo jazz per tutta la sua vita. In più ho fatto le mie esperienze di conservatorio di musica classica, ho ascoltato tante musiche diverse, a volte frequentato anche musiche diverse come la musica popolare del sud, della Puglia. E poi non sono nato in una cultura in cui si ascolta jazz dalla mattina alla sera e si frequentano soltanto musicisti jazz e si parla solo jazz. Quindi, ripeto, faccio fatica a dire di essere un musicista jazz al 100%. E con questo non voglio dire, è una cosa poi interpretabile, potrebbe essere una cosa negativa o positiva, non lo so. In tutti i modi la mia storia di musicista è fatta da tante esperienze diverse e di questo ne sono contento alla fine perché poi quello che ci differenzia è che ci rende unici. È proprio le esperienze musicali e di vita che affrontiamo nel nostro percorso, quindi. Pensi che il fatto di ibridare la musica sia anche un mezzo idoneo per fare conoscere questo linguaggio a un pubblico più giovane? Sì, a condizione che non lo si faccia con la sola finalità di avvicinare questa musica a un pubblico più giovane, nel senso che queste operazioni fatte apposta per incontrare il favore del pubblico, a parte che sono artificiali, le vedo un po' artificiali, a volte sono poco musicali, non hanno un senso di bellezza dietro, hanno solo, lo senti, che hanno un senso di finalizzazione alla commercializzazione del prodotto finale. E questo spesso è a discapito della qualità di ciò che si fa. Quindi, con questo voglio dire, se si fa un concerto, un disco, qualcosa, e il risultato finale avvicina i giovani, questo ben venga, diciamo come conseguenza, ma come finalità iniziale non ragionerei tanto in questi termini. Tu frequenti le scene oramai da parecchi anni. Hai notato un mutamento nel pubblico del jazz? Parlando dell'Italia, che poi insomma è il paese in cui sono nato e in cui ho visto un po' più fasi, ecco. Parlando dell'Italia, sì, ho visto un cambiamento, un maggiore interesse, una maggiore vicinanza del pubblico verso il jazz in questi ultimi anni, anche grazie ad artisti che, giusto come dicevi tu, sono riusciti a fare questo, a rimanere in equilibrio fra la tradizione del jazz è una musica che affronta varie altre influenze e che come conseguenza ha avvicinato un pubblico che inizialmente non sarebbe stato vicino al jazz. Non so se devo fare nomi, forse meglio di no. Come vuoi. Però voglio dire, queste operazioni ben vengano. Se riescono ad avvicinare il pubblico. Il guaio è, dall'altra parte, che se questo accade senza che però non sia bilanciato anche dagli altri aspetti jazzistici, cioè quelli più storici, più legati alla storia, più legati alle tradizioni pure del jazz, si rischia di dare un'informazione errata e non completa della questione jazzistica, quindi si rischia di avere un pubblico che pensi che il jazz sia quello che passa in televisione col cantante di musica leggera che canta accompagnato dal jazzista, e si rischia di non capire veramente bene i codici di questa musica che sono molto più complessi, quindi ci vorrebbe un'alternativa, ci vorrebbero tutte e due le cose. Sono d'accordo al 102%. Un altro fattore che mi interessa approfondire con te. Quando tu approcci un tuo collega, qualcuno con cui magari ti piacerebbe suonare, cos'è che ti attrae di quel musicista? Cos'è che cerchi in quel musicista? È una questione di affinità, a volte difficile da spiegare. Spesso mi succede di trovarmi a suonare con questo altro eventuale collega e di sentire delle emozioni mentre sto suonando, sentire che alcune musiche che avevo suonato con altri musicisti prima. Questo nuovo musicista mi permette di reinterpretarle in maniera diversa, oppure mi fa sentire più comodo su certe interpretazioni, mi fa sentire più tranquillo, oppure mi dà delle idee nuove. Cioè, forse il fatto di cambiare musicista, di cercarne sempre nuove, è proprio quello di trovare nell'altro musicista la possibilità di scoprire delle zone musicali di me stesso che non avevo fino a quel momento immaginato che esistessero. Il fatto di collaborare con altri musicisti dà proprio questa sensazione di scoperta di se stessi. Questa è la cosa più bella, forse, che mi attrae del fatto di suonare con altri musicisti ogni volta. Hai avuto e hai ancora un tuo punto ideale di riferimento? In che senso? Un musicista che ti ha ispirato, che per te rappresenta un faro, non dico da imitare, ma quantomeno con cui rapportarti? Difficile dirne uno solo perché quello che mi è successo piuttosto è di avere delle fasi. E ogni volta queste fasi duravano 5, 6, 7 anni, dopodiché questa fase, non dico che si esauriva, ma proprio il fatto di essere stato immerso in quella fase mi permetteva di scoprire un altro musicista e un altro ancora. Difficile dirne uno solo. Diciamo che in generale, un po' come tutti, sono stato attratto sia da pianisti, ma anche. Non so, forse quello che, se dovessi proprio nominare quello che più di tutti, non potrei fare a meno di nominare Miles Davis, che insomma è diventato ormai quasi un luogo comune dire questo perché ha attraversato tutti i periodi della storia del jazz, quindi è facilissimo nominare Miles Davis. In un'altra fase, Art Tatum, un pianista che insomma. Anche qui non sto dicendo niente di nuovo, però sono dei giganti della musica, neanche del jazz, poi si parla talmente in grande, Però Art Tatum, per esempio, è un pianista che ho scoperto tardissimo. Probabilmente perché le sonorità, a causa delle sonorità, le registrazioni dei dischi di Art Tatum sono registrazioni antiche, che ovviamente quando avevo 15 anni ero poco attratto da questo tipo di sonorità, abituato ai suoni edulcorati della musica leggera. In quel periodo io ascoltavo molto pop, infatti mi sono avvicinato, prima di avvicinarmi al jazz acustico, sono passato dalla fusion, che in quegli anni andava per la maggiore, e poi di là diciamo il percorso è stato pian piano indirizzato verso la musica acustica, il jazz più tradizionale. Parliamo adesso della tua produzione discografica. Io ho qui tra le mani alcuni dischi tuoi. Il primo, Nico Morelli Trio con Mark Johnson e Roberto Gatto, se non sbaglio della metà degli anni 90. Sì, questo disco è uscito nel 98, è stato registrato nel 96, proprio qui a Roma. Ecco, quando si parla di date, sparti, acque, quello è stato un bellissimo momento. Una collaborazione con Mark Johnson, che è un contrabbassista eccezionale, ancora, cioè non faccio fatica a dire il migliore al mondo, o fra i migliori, fra i due o tre migliori al mondo, e bassista di Bill Evans, quindi c'ha anche una storia incredibile alle spalle. È un disco che abbiamo registrato a Roma con Roberto Gatto, che è un altro musicista incredibile italiano, quindi è stata per me quella lì un'esperienza indimenticabile, che anche se è durata poco tempo, pochi giorni, comunque mi ha di colpo aperto la porta verso una visione del jazz diversa. Io in quel periodo vivevo in Puglia e sono stato di colpo, mi sono trovato di fronte a una situazione talmente bella e profonda che insomma mi ha segnato veramente molto. Poi abbiamo Unfolk et Bull, Pizzica e Jazz Project. Sì, ecco, questo è un disco che è uscito nel 2006 per una casa discografica francese, la Crystal. Io vivevo nel 2006, vivevo in Francia ormai da 7-8 anni. Prima di questo disco avevo fatto un altro disco con la Crystal, che era andato molto bene, era stato record di vendita in Giappone. Di conseguenza la Crystal mi ha proposto una specie di carte blanche in cui mi metteva a disposizione lo studio e mi chiedeva, mi lasciava libero di fare quello che volevo. Il progetto che volevo, con i musicisti che volevo, quindi una situazione bellissima che però mi ha messo un po' in crisi inizialmente, perché non me l'aspettavo, quindi ho dovuto in fretta decidere cosa fare, che progetto fare. Io avevo da tantissimi anni questo sogno nel cassetto, cioè ce l'avevo da quando ho cominciato a suonare in giro professionalmente, questo sogno di mettere insieme il jazz, che era la musica, la mia passione, questa la musica che mi attrae di più, insomma, in generale, per la sua libertà nell'improvvisazione, il jazz con la musica della mia regione, anche perché, come dicevo prima, sì, sono musicista di jazz, tutto improvviso, eccetera, eccetera, però la mia estrazione, la mia cultura musicale viene dalla Puglia, sono nato lì, ho ascoltato la musica pugliese da bambino, conosco quei suoni, conosco la gente che la fa, quindi il jazz è una musica che nasce da un'idea popolare, quindi, ed è importante secondo me che rimanga tale, sebbene poi il jazz si avvicina a tante di quelle forme musicali anche molto complesse, che a volte fanno perdere le sue sonorità più legate al popolare. Quindi ho voluto realizzare questo sogno che avevo da 20 anni, di mettere insieme le sonorità della musica folk pugliese, alcune salentine della pizzica, ma in generale le sonorità della musica del sud Italia, a fianco al jazz, quindi nel gruppo il gruppo che era, è costituito da un quintetto, vede affiancarsi musicisti di jazz nella sezione ritmica e due musicisti di musica popolare, anche cantanti, che suonano diversi strumenti tradizionali e collaborano insieme in questo gruppo, che è un progetto che mi ha molto appassionato e che ancora portiamo in giro e vorrei portare in giro a Roma un giorno, spero di venire a Roma con questo gruppo perché è una città dove non ho avuto occasione di presentarlo. mi accodo al tuo desiderio e spero di sentirti Anzi, presto. L'auto invito. E veniamo a questo terzo disco, Nico Morelli Trio con Aldo Romano, Michel Benità, live in Morocco. Sì. Questo, allora, la collaborazione con Aldo è iniziata nel 2002, Aldo Romano. Lui mi aveva invitato a suonare nel suo disco omaggio a Sidney Bechet. Dopodiché nell'anno successivo io ho invitato lui a fare qualche brano nel mio disco e dopo questo abbiamo avuto l'occasione di essere invitati a tenere una tournée in Marocco con lui e con Michel Benità, quindi è stato abbastanza naturale pensare di registrare tutti i concerti che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una settimana di tour nel nord del Marocco, abbiamo registrato tutti i concerti, il repertorio basato su mie composizioni ma anche di Aldo e anche di Michel, qualche standard e niente, poi la registrazione di questi live, abbiamo fatto una selezione dei brani che sono riusciti meglio e qualche tempo dopo è uscito questo disco live, che è il mio primo disco live, di cui sono molto contento perché insomma il live è bello perché senti anche il calore del pubblico nel disco e devo dire che il pubblico del Marocco, a parte che è molto curioso e interessato a musiche diverse come il jazz, il Marocco non è il paese del jazz, possiamo facilmente immaginare, e comunque c'è un calore del pubblico ascoltando questo disco che è bellissimo ascoltare. Se non sbaglio è uscito da poco altro tuo disco dedicato a Bill Evans o qualcosa del genere. Sì, è uscito in settembre un nuovo lavoro di cui sono veramente molto contento, è uscito per la Bonsai Music, un'altra etichetta francese. Questo è un disco in trio con me al piano, Emmanuel Becks all'organo Hammond e Mike Ladd alla voce. Mike Ladd non è un cantante, potremmo dire rapper, ma sarebbe sbagliato dire così, direi piuttosto un poeta in real time. È un omaggio a Bill Evans, che però è abbastanza originale perché oltre a questa strumentazione atipica, utilizziamo anche delle macchine, dei loop, dei vocoder, effetti vari. In un riarrangiamento dell'opera di Bill Evans abbastanza distante dal suo modo di interpretare i suoi pezzi. Il disco è uscito a fine settembre e devo dirlo, abbiamo ricevuto moltissimi premi dalla critica internazionale e quindi sono contentissimo, ma sono soprattutto contento del risultato del disco, che è veramente fantastico. Abbiamo rivisto, è un lavoro fatto veramente a tavolino a tre, è un mio disco, ma potrei dire che è un nostro disco, mio, di Emanuele e di Mike. Abbiamo rivisto Bill Evans sotto altri angoli, anche un po' ironici, anche un po' umoristici, che è insomma una maniera un po' inusuale di vedere Bill Evans, che ha sempre avuto questo atteggiamento molto rigoroso, molto serioso. Abbiamo voluto scoprire altri aspetti di questo personaggio e la grande sorpresa che abbiamo avuto è che il disco è arrivato anche alla moglie di Bill Evans, che ci ha scritto molto contenta del risultato e ci ha fatto i complimenti. Quindi è stato, cioè, questo è veramente un grande complimento, averlo dalla moglie. Bene, un'ultima inevitabile domanda, progetti per il futuro? Progetti per il futuro, adesso ci sono i concerti che arrivano nell'immediato, in gennaio c'è una tournée con Dominique Di Piazza, che è un bassista francese conosciutissimo per le sue collaborazioni con John McLaughlin e Birelli Lagren, a fianco al batterista pugliese, si chiama Alessandro Napolitano. Poi c'ho la tournée relativa al disco di Bill Evans con Emmanuel Bex e Mike Ladd, la tournée che attraverserà tutto il 2014, abbiamo diverse date. L'estate mi vedrà in Puglia per un progetto abbastanza carino, in pratica la mia città, in provincia di Taranto, Crispiano, mi invita a tenere uno spettacolo in cui inviterò un po' tutti i musicisti con cui ho collaborato finora, facendo sia il pianista che il presentatore, quindi faremo una grande serata per il mio paese. Questa è una cosa carina che mi appassionerà molto questa estate. Ho un festival di cui sto curando la direzione artistica in Francia, nell'ovest della Francia, alla Rochelle, e insomma, già questo è abbastanza per tenermi impegnato da qui ai prossimi mesi estivi. E poi, ripeto, approfitto sempre, lo ripeto, spero di tornare a Roma a suonare e a portare il mio progetto. Bene, grazie a Nico innanzitutto per la serata di ieri, che è stata davvero splendida, e grazie per questa intervista, e anch'io spero di risentirlo il più presto possibile. Ok, ciao, ciao a tutti e a presto. Grazie per aver ascoltato A Proposito di Jazz. Potete ritrovarci online sul sito www.online-jazz.net, sulla pagina Facebook facebook.com/onlinejazz e sul profilo Twitter @onlinejazz. Buon jazz a tutti!